Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Gonaria scese dalla cima del monte che in quel punto incombeva sulla valle con immensi dirupi, e come un serpente che via via si ingrossasse, l'avvinghiò nelle sue spire e la tenne paralizzata davanti a un parapetto al quale si era appoggiata perché sentiva i piedi doloranti. Non era mai stata sola, e dalle profondità del suo essere uscirono gli spettri, i mostri, i demoni di cui erano popolate le notti della sua infanzia. Uscì Coeddu in persona, che era il diavolo, così chiamato dalla coda che era il suo simbolo. Del terrore un urlo le uscì dalla gola. «Aiuto! Aiuto! Mi hanno uccisa! Mi hanno cacciato via di casa stanotte!» Era lo stesso grido di Gigia, e come quello lanciato nel vuoto, al cielo privo di stelle e di Dio. Poi si vergognò e tacque, e riprese il cammino studiando il passo, perché i piedi le si erano gonfiati. L'oscurità era assoluta, e ogni passo poteva portarla in un baratro. Ma andò avanti, superò il bivio di Oliena che riconobbe dai fanali a petrolio, provando nel suo malgrado un senso di conforto. Aveva la fronte imperlata di sudore, la benda bianca intorno alla testa la stringeva come in una morsa. Il suo timore era quello di disperarsi. Che ora poteva essere? Sempre più barcollando, arrivò a un punto dove la strada correva piana, lievemente ondulata. Era già nelle terre calde che ricevono il sole della baronia, anche se la baronia è lontana, e infatti un profumo di mirto le invase le nari. Le parve di riconoscere il luogo, sebbene da 30 o 40 anni non fosse più passata di lì, e le venne da piangere. Ma quasi nello stesso momento accadde il miracolo. Dal monte Corrasi si diffuse un immenso chiarore e apparve lontana, inaccessibile eppure vicina la luna. Tutta la landa ne fu inondata e, come per un misterioso richiamo, i grilli cominciarono a cantare, i mirti a odorare, gli oleandri lungo i torrenti secchi ad agitarsi dalla gioia. Era un coro che Dio guidava, il Dio dei boschi, il Dio dei lentischi, dei corbezzoli, degli uccelli notturni che già facevano sentire il malinconico canto, ma non alberga nei cuori degli uomini, muore con quelli cui dà la morte, si fa divorare dai topi e dai tarli in una stanza che rimane chiusa per 20 anni. Il tripudio notturno accrebbe la sua pena. Che ora poteva essere? Si sarebbe abbandonata su un mucchio di ghiaia se avesse potuto fermarsi, ma doveva arrivare. Gli animali sono eterni perché non hanno speranza. I piedi le sanguinavano, forse sarebbe morta prima di arrivare, ma anche quello era un arrivo. Un tenue chiarore tingeva il monte di Galtellì con la sua forma di colomba. Poteva essere l'annuncio dell'alba e questo la spaventava. Si sarebbe nascosta perché certamente sarebbero venuti a cercarla, ma poteva essere un gioco degli occhi. Gli uccellini fremevano nelle siepi intorno, si innalzava qualche rapido canto. Pensò che non aveva mai visto il risveglio della natura, ella che non aveva dormito mai. Avesse potuto bere un po' d'acqua. Si trascinò per una breve salita e intravide un lumicino lungo la strada. Non poteva essere una capanna di pastori. I pastori non accendono fuochi la notte, perché sono anch'essi figli delle tenebre. Infatti era una casa cantoniera, una di quelle case rosse che a quei tempi interrompevano il deserto. Sapeva che erano distanti l'una dall'altra 9 chilometri, dunque in tutta la notte non aveva percorso che 9 chilometri. Sgomenta si avvicinò alla porta e bussò. Le rispose un silenzio fatto di paura. Bussò ancora, si aprì una finestra e apparve un viso di donna. Chiese un po' d'acqua, per carità. Subito la casa si riempì di rumore e una donna incinta, seguita da un codazzo di bambini felici per la novità, aprì la porta. «Signora maestra!» gridò. «Lei qui? Ma come mai? Che cosa è avvenuto?» Era una sua antica allieva, una delle tante che aveva allevato all'amore di Dio. Datemi un po' d'acqua, aiutatemi, non è niente. Devo arrivare a Gonone. La donna credette che farneticasse. Aveva anche le mani calde, forse aveva la febbre. Arrivò con un lume in mano un uomo grave, impallidito dalla malaria. «Venga, venga sopra», disse, «che si riposa un poco. Ha le scarpe tutte rotte, guarderemo se c'è un paio delle bambine che le vada bene. Poi proseguirà». Si lasciò condurre. La stesero sul letto matrimoniale ancora caldo, nella stanza piena di attrezzi. Non si poteva immaginare una povertà più grande, ma era una casa di vivi e questo le diede un senso di pace. Credendo che dormisse, i due si allontanarono in punta di piedi. Sentì che confabulavano. Dopo un poco le giunse il rumore di un calesse che si allontanava. Capì subito. Chiamò. «Voglio andare a Palma di Seta», disse. «Lasciatemi andare». Fece per alzarsi, ma ricadde affranta. La fuga dalla vita e dalla morte era finita. Il messaggio arrivò con un raggio di luce che, filtrando nelle imposte sconnesse, tagliò di traverso le tenebre e andò a posarsi con l'ampio cono sul capezzale. Era il raggio di un sole morente, come se la notte fosse tornata indietro e trascinava con sé un inquieto polverio, o forse fiocchi di nuvole, che pian piano si andarono dilatando, presero forma e sostanza, finché ella vide, ma vedeva veramente, una fanciulla diafana seduta sulla sponda del letto. Signora maestra, non mi riconosce? Sono venuta a prendere l'acqua di Obisti perché muoio dalla sete. Perché non me l'ha mandata? Si riscosse dall'incubo e riconobbe Peppe Dedda. Voi non la ricordate di sicuro. Era quella fanciulla che Gonaria mandava la mattina in chiesa a portare il caffè e latte al fratello sacerdote quando rientrava in sagrestia dalla messa. Poco più che una bambina, figlia di genitori poverissimi, che vivevano in uno dei tanti tuguri che esistevano anche al centro della città, era intelligentissima, studiosa, ma soprattutto innamorata della sua maestra, che in cambio di piccoli servizi le dava qualche lezione della classe superiore, poiché era più avanti delle altre. Ed era un'anima allegra, che trasfigurava ciò che vedeva e riusciva a far sorridere anche quelle tristi donne appollaiate sulle sedie come su trespoli, per non toccare il pavimento. Entrava con un gaio ciondolio del corpo cui sembrava rispondere una cantilena di saluto e subito si disponeva ad aiutare la maestra a preparare la colazione per il santo fratello. Qualche volta Gonaria la inviava da donna Vincenza, quando c'era il figlioccio Sebastiano, a portare i dolci che ella faceva con le sue mani e mandava a dire che erano pulitissimi, e là incontrava il ragazzo che era poco più grande di lei e insieme parlavano attratti dal comune mistero. La povera fanciulla illuminava anche il volto di donna Vincenza, che non mancava di trascinarsi fino alla grande credenza, dove custodiva gli spiccioli ricavati dalle minute vendite che don Sebastiano tollerava, per darle un soldo, e si intende un soldo sardo, che erano i 10 centesimi di rame, col lungo collo di Vittorio Emanuele II. L'apparizione della fanciulla che portava il caffè e latte al canonico le parve di buon auspicio. Ma come essa continuava a chiamare, con voce sempre più fioca, «Signora maestra, signora maestra», un'onda di terrore la scosse tutta. Le venne in mente il giorno in cui Peppe Dedda aveva lasciato Nuoro per Genova. Nevicava, ma lei saltellava sulla neve come un passero, felice dell'ignoto mondo che la chiamava a sé. La fanciulla aveva a Genova una zia che serviva da anni presso una ricca famiglia e i padroni, sentendo della sua intelligenza, si erano offerti di farla studiare. La maestra aveva preparato tutto. Il distacco fu commovente, persino quelle due povere pazze che si erano abituate alla sua voce, se non arrivarono a darle la mano, la benedissero piangendo. La casa restò vuota perché non c'è nulla che riempia una casa più della consapevole povertà di una ragazza. Ella abbracciò la sua maestra, che già aveva superato in statura, e giurò che appena diventata maestra lei sarebbe ritornata per insegnare al suo fianco. Andò così per le strade spazzate del sogno. Scriveva ogni settimana lettere sempre più belle, perché in quelle scuole c'erano maestri tanto più bravi di Gonaria, e Gonaria le leggeva in classe, portando ad esempio questa misera bambina che si costruiva il destino con le sue mani. Poi, d'improvviso, il silenzio. Nessuno sapeva che cosa era avvenuto. Dopo 2 mesi arrivò una lettera della zia che diceva come Peppenedda si fosse sentita male, perché aveva troppo lavorato, le scuole erano pesanti e a Genova il clima non era così buono come a Nuoro. Il medico aveva ordinato che la ricoverassero a Santa Tecla e ora stava meglio. Nessuno sapeva cosa fosse questa Santa Tecla, che poi era il tubercolosario dove allora si entrava per morire. Di quando in quando arrivavano delle lettere della fanciulla, sempre più rade e sempre più brevi. Diceva che stava benino e perseguiva il sogno che l'aveva spinta fin là. Se non le fosse venuta un po' di febbre la sera sarebbe tornata a scuola, ma il medico diceva di aspettare. Verso ottobre, dopo un'estate di silenzio, arrivò un biglietto nel quale diceva che aveva una terribile sete e pregava la maestra di mandarle una bottiglia di acqua di Obisti, ma che andasse proprio lei, che venisse direttamente dal cantaro. Solo quell'acqua poteva dissetarla. Furono le ultime sue parole. Di lei non rimase neppure l'eco della cantilena. Un inutile passaggio. Don Sebastiano avrebbe detto che anche lei era andata a cercare pane migliore di quello di grano. Si riscosse di colpo. Forse la testa le era caduta nel sonno, ma il sogno e la realtà non fanno differenza. La bambina che si recava per l'eternità il miraggio di quell'acqua non era altri che lei, con la sete che l'aveva divorata tutta la vita. L'acqua di Obisti, di quella modesta fonte paesana, avrebbe potuto operare il miracolo. Solo che nessuno le avrebbe porto la tazza, come lei non l'aveva porta a Peppenedda. Quel che deve avvenire, avviene, senza rimedio, senza che Dio possa farci nulla. L'indomani avrebbe aperto la stanza e si sarebbe compiuto il suo destino. Quell'anno l'estate cominciò nel mese di maggio. Si annunciò con folate di vento bollente, un vento che l'Africa soffiava su tutto il Tirreno e non conosceva ostacoli di colline o di monti. Dal tempo delle cavallette non si era visto nulla di simile. Trascorreva sulle tanche in fiore, sui prati dove già il grano svettava, e al suo passaggio tutto pareva torcersi e abbrustolirsi, come quando d'agosto scoppiavano gli incendi nei boschi. Nel borgo desolato colava una pioggia fitta di sabbia che chiudeva gli uomini nelle case sprangate. Dalla campagna giungevano mugolii sinistri di bestie sperdute. Solo verso sera, quando il sole cadeva, nel caffè e nella farmacia appariva qualche ombra. Don Sebastiano, Don Serafino col fazzoletto tra il collo e la camicia, Bartolino e gli altri col colletto aperto, tutti rassegnati al destino. Bustiano Pirari diceva che erano quelle bagasce andate a Tunisi a farsi il bastardo. Il vento durò 4 giorni. I primi a dare segnali di vita furono i cani randaggi, che alle prime folate erano misteriosamente scomparsi. Poi fecero capolino gli uomini, con un'aria di scampati al diluvio. Le strade si popolarono e ciascuno, o almeno chi aveva terre al sole, prese la via dei campi per vedere i guasti che quella maledizione aveva fatto. Don Sebastiano inforcò il cavallo e scese a Isporosile. Da un lato e dall'altro le siepi di more che fiancheggiavano la strada di Mughina sembravano pietrificate, tanta era la sabbia che si era accumulata. Gli orticelli intorno, che erano già disadorni per l'antica pigrizia dei contadini, parevano un campo di battaglia appena abbandonato dagli eserciti. Qua e là affioravano animali morti di arsura e di stenti. Gli ovili, più a valle, erano tutti accartocciati e don Sebastiano pensò mestamente che il raccolto di 2 anni poteva considerarsi perduto. Egli non era portato alla meditazione, né concedeva troppo alla provvidenza, ma quella vista gli rattristava l'animo e l'idea antica quanto il mondo, l'idea del castigo, gli attraversò la mente. Personalmente non aveva da rimproverarsi nulla, ma qualche mese prima avevano ammazzato Re Cotteddu, che era una brava persona, e nessuno era venuto a capo di nulla. Per non parlare di Francesco Mattu, che avevano ridotto all'elemosina sgarrettandogli le vacche. Chissà poi perché. Può darsi che tutto si paghi e tutti paghino per uno. Il cavallo era arrivato alla fine della strada e si era incamminato verso il guado del torrentello oltre il quale si entrava nel chiuso di Don Sebastiano. Come si ricorderà, egli aveva costruito letteralmente questa campagna e non una, ma 2, 3 volte quante erano state le piene che gliel'avevano devastata. E perciò egli amava il predio come una sua creatura e tremava al pensiero della distruzione che avrebbe trovata. Tra il cancello e la casa agricola c'era un fitto oliveto ed egli lo attraversava incredulo. Gli alberi svettavano rigogliosi, la terra era coperta di verde che i buoi del gioco brucavano pacificamente. In breve non c'era traccia della sofferenza passata. Era stupefatto e sarebbe stato fuori di sé dalla gioia se non avesse avuto nel cuore l'angoscia di quel che aveva visto lungo il cammino. Per quale privilegio il suo possesso era rimasto immune dalla strage? Pensava a un gioco di correnti che avevano spinto verso il nord i malefici soffi, oppure alla protezione della costa di Prete Antonio che sbarrava la valle. Era probabile o possibile che si fosse formato come un vuoto sul fondo ed era stata la salvezza. Cercò di ricordare qualcuna delle sue rare letture scientifiche ed era avvolto in questi pensieri quando emerse quasi di sotto la pancia del cavallo una figura spettrale, seguita come un cane da un ragazzotto sui 15 anni, anch'esso misero e coi segni della malaria sul volto. Nella contemplazione della sua fortuna aveva dimenticato il mezzadro Nanneddu Titule, che vuol dire Giovannino Lurido, ma naturalmente era un soprannome, il quale da circa un anno teneva il podere. Guardato così dall'alto pareva che il vento malefico fosse passato soltanto su di lui. «Padrone», egli disse, «lei si chiede come si è salvato dalla peste. Venga a vedere». Don Sebastiano scese da cavallo. Egli detestava questo mezzadro che un amico gli aveva mandato dalla Barbagia perché a Noro scasseggiava la manodopera. Era venuto col suo carico di miseria e di figli, di cui quello quindicenne era il più grande. Non aveva neppure salute. Don Sebastiano l'aveva aiutato, ma non riusciva a nascondergli la sua antipatia. Gli pareva che svilisse il podere e poi voleva fare di testa sua. Aveva ragione Poddanzo a metterlo in guardia. Scesero il breve pendio sotto la quercia e si trovarono davanti alla casa. Dal mezzo battente chiuso della porta pendeva un cane crocifisso con le zampe anteriori divaricate e inchiodate nel legno e la testa abbandonata sul petto un po' di traverso. Ecco che cosa ha salvato il podere. Don Sebastiano restò pietrificato. Gli vennero alla memoria i sacrifici rituali di cui aveva letto senza crederci troppo nell'enciclopedia del circolo o quei crocifissi con la testa d'asino che i pagani dipingevano a scherno dei cristiani. Ha urlato per 3 giorni, poi è morto e il vento che piegava gli alberi di là dalla costa è subito cessato. Don Sebastiano avrebbe voluto buttarlo giù dal muraglione che sosteneva la terra dell'orto, ma il mezzadro aveva gli occhi allucinati e gli fece quasi paura, sebbene con un dito avrebbe potuto schiacciarlo. «Staccalo subito e seppelliscilo e non dirlo a nessuno, ricordati». «Va bene, padrone». Don Sebastiano non era tenero di cuore, ma la superstizione lo sconvolgeva come una smentita alla fede che egli aveva nella ragione. Doveva assolutamente disfarsi di quel selvaggio. Ma questi, mentre lo accompagnava deluso al cavallo, gli disse abbassando gli occhi: c'è zio Merriolu, il mezzadro del fondo di Pascale Martis, che non lascia scorrere l'acqua dopo che ha bagnato il suo orto. Per ora acqua ce n'è, ma d'estate possiamo restare all'asciutto. Che cosa facciamo? Arrangiatevi tra di voi, rispose don Sebastiano infastidito. Si sarebbe ricordato più tardi di queste parole.